Sento più, so quel che fai, è un po' paura, sai, sono senza sol, le strade di Rosario, fa male al cuore, avere un figlio straordinario, saperti là. Sono orgogliosa e sola, ma dimenticarti è una parola. Bambino mio, che cosa sei sempre stato un po' speciale, col tuo pallone nero di lividi e di porte, e quella tosse amore che non passava mai la notte, e scamiciato davanti al fiume ore e ore, chiudendo gli occhi, appeso al cuore. Oh madre, madre, che infinito immenso cielo sarebbe il mondo se assomigliasse a te. Uomini e sogni come le tue parole, la terra e il grano come i capelli. Tu sei il mio canto, la mia memoria, non c'è nient'altro nella mia storia. A volte, sai, mi sembra di sentire la polverosa accesa nel cortile, e guardo fuori, Fuser è ritornato, e guardo fuori e c'è solo il prato. Oh madre, madre, se sapessi che dolore, non è quel mondo che mi cantavi tu. Tu guarda fuori sempre, e spera sempre di non vedermi mai. Sarò quel figlio che ami veramente, soltanto e solo finché non